Dialog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ferugli, momenti di tensione a Roma al Tiburtino Terzo tra esponenti dei movimenti per la casa e dell'ONG e militanti di destra di Casa Pound. Gli scontri hanno portato all'interruzione del consiglio straordinario del municipio, convocato nel centro anziani del quartiere per parlare del centro di accoglienza per migranti di via del Frantoio. Gli esponenti di Casa Pound sono entrati nel centro scortati dalla polizia, mentre fuori si radunavano un centinaio di militanti dei movimenti antifascisti. Dopo alcuni momenti di tensione con gli agenti, un gruppo è riuscito a forzare il blocco della polizia. Una volta dentro si sono verificati gli scontri con Casa Pound. La questura denuncia che alcuni aderenti alla sinistra antagonista romana hanno fatto uso di spray urticanti e hanno lanciato oggetti di vario tipo. Il consiglio alla fine è stato annullato. Quali sono le differenze tra questa notizia e analoghe notizie che vengono date praticamente all'ordine del giorno nel 1976? Do una data a caso, l'anno in cui ci fu il film di Lizzani San Babila ore 20, un delitto inutile. Fascisti comunisti fanno a botte in piazza. Questa all'ordine del giorno, chi non ha vissuto quegli anni, chi non l'ha vissuti forse l'ha sentiti raccontare dai padri, dai genitori, comunque siano furono anni terribili, anni in cui il tuo compagno di banco con cui mangiavi la merendina all'elementare a un certo punto, un giorno non era più seduto nel banco accanto a te e leggevi che magari l'avevano arrestato perché aveva provato a fare un attentato, aveva messo una bomba o aveva sprangato a morte qualcuno, quindi non è anni con cui si scherzava sicuramente. Però sta di fatto che nella costante quotidiana, assieme appunto ai cugini di campagna, a Lucio Battisti, a Guccini, alla Reno 4 il Maggiolino, assieme all'Eschimo e le Clark finte, Clark scalcagnate, i giubbotti paramilitari, gli occhiali Ray-Ban con il buco in mezzo che si diceva che ci mettessero la sigaretta Marlboro, i Marines, insomma tutto questo apparato leggendario, c'era anche il quotidiano di fascisti comunisti che facevano a botte. Sempre, comunque, ogni mattina a scuola qualcuno dava un volantino, arrivava un altro, si faceva a botte, poi tutti insieme. Ricordo la mia città natia, che era Perugia, io che naturalmente ero considerato di destra, famiglia repubblichina, nascevo già con lo stigma di essere di destra, ma avevo tutti gli amici che erano di sinistra, quindi dovevamo star seduti in posti opposti nelle assemblee scolastiche, vestirci diversamente, poi magari la sera andavamo al cinema assieme di nascosto, guai se ci vedevano, era un tradimento. Ricordo due fratelli, uno di destra e uno di sinistra. Quando si incontravano per Corso Vannucci si prendevano a calci, poi la sera prendevano l'autobus insieme e tornavano a casa alla mamma che aveva fatto la minestrina per tutti e due. Beh, cosa accade oggi? Accade che c'è la notizia di ragazzi che si dicono fascisti da una parte, comunisti dall'altra e fanno a botte. Fanno a botte dove? E qua è la novità, è l'accezione contemporanea. Ogni ritorno di mode passate, ogni revival, ogni gusto del vintage naturalmente ha una sua rilettura. La rilettura è che non fanno a botte in piazza, fanno a botte in un centro anziani, di fronte probabilmente ai testimoni degli epici scontri di piazza. Quindi i pensionati che hanno visto fascisti comunisti fare a botte nel loro centro anziani hanno detto mi ricordo anche io quando gliele davamo ai fascisti e li picchiavamo, mi ricordo anche io, no, voi scappavate, eravamo noi a picchiarvi, facevano a botte, si spruzzavano lo spray al peperoncino, quello che mettono le signore nella borsetta quando tornano a casa per paura di essere aggredite. Beh, ecco la domanda, 800 24 00 24, qualcuno di voi ha vissuto veramente quelle epoche? Da che parte stavate? Anche oggi voglio fare un sondaggio. Eravate alla parte dei fascisti o dei comunisti? Oggi non esistono più né i fascisti né i comunisti. È qualcosa come dire faccio parte dei Guelfi e Ghibellini, facciamo uno scontro in piazza, noi siamo i Guelfi e voi i Ghibellini. È totalmente antistorico. Eppure, come la gente oggi si mette i maglioncini stretti, i pantaloni a zampa d'elefante, le donne non si tingono i capelli, si rimettono gli oggetti etnici addosso, nel grande revival torna anche il fatto che qualcuno scende in piazza e fa botte, per da una parte sono i fascisti e da una parte i comunisti, come quando si giocava a guerra da piccoli, facciamo che noi eravamo questi, facciamo che noi eravamo gli indiani, facciamo che voi eravate i cowboys e facciamo così. 800 24 00 24, ricordate voi, fascisti o comunisti? Portato un po' d'ova, di vernice e qualche cerchiettata di merda e fai la festa sti quattro stessi. Che sti pagliacci! Ma spiegamese che stanno uscendo! Sono slovacchi da me! Europa, nazione, socializzazione! È È abbastanza realistico, questo accadeva. Questo mio fratello è un figlio unico, è un film tratto dal famoso romanzo di Antonio Pennacchi, anche lì c'è la storia comunque di persone che vivevano con contrasti in famiglia per essere appunto uno di destra e uno di sinistra. Beh, cosa ricordate voi di quegli anni? Tralasciamo un attimo gli aspetti terribili, tralasciamo il fatto che hanno lasciato un'infinità di morti per le strade. Roma è piena di lapidi. Una volta per il mio giornale feci un'inchiesta, girai Roma e vidi il cimitero che quotidianamente attraversiamo ma indifferenti. Là c'è lapide di un poliziotto ammazzato davanti a una scuola, là su quel ponte c'è la lapide di una ragazza uccisa durante gli scontri, là in quell'altro posto c'è un ragazzo sprangato e ucciso, e ormai non si perde più il senso, erano di destra, di sinistra, non che voglia banalizzare, non che voglia dare pari peso in epoche in cui è difficile ritrovare quello che era il discrimine, voglio soltanto fermarmi all'aspetto esteriore. È un momento in cui il paese era diviso, perlomeno nelle istanze giovanili, non nel definire se era meglio l'iPhone o era meglio usare il sistema Android, ma nell'essere o di destra o di sinistra, ma essere destra vera e sinistra vera. Guardate che vorrei suggerire che le radici, le scaturigini del neofascismo in Italia sono di tutt'altro segno. Non si va a picchiare la gente che parla di immigrati, ma si leggeva al tempo Gheddafi Templare di Allah, era uno dei testi della destra neofascista italiana. Si aveva il mito comunque dell'Islam, perché si vedeva che era una civiltà tradizionale, strutturata, noi avevamo perso quelli che erano quei valori. E a sinistra erano comunisti veri, altro che scherzi, figuriamoci, sognavano proprio il comunismo vero, quello reale, non quello finto, non quello dei salotti, non quello delle terrazze. C'era un contatto diretto con i testimoni di questi due mondi, l'uno completamente disfatto, ma con i suoi reduci, gli ex fascisti che andavano ai ragazzi e raccontavano l'epopea della loro, non so, della decima mass, dei combattimenti. D'altra parte, testimonianza, i primi nuclei brigatisti a Reggio Emilia ebbero le armi in mano dagli ex partigiani, che hanno detto tenete, continuate voi, la rivoluzione non l'abbiamo lasciata a metà. Eravate fascisti o comunisti? Di fronte a questi fenomeni di revival che assomigliano tanto a una sorta di moda e di ritorno del vintage anche negli atteggiamenti di espressione politica, oggi voglio sapere invece cosa eravate voi. Nicola, buongiorno. Ciao, buongiorno. Fascista o comunista? Sinistra. No, dai, dobbiamo, ragazzo, non si scherza oggi. Comunista. Oggi comunista. Bene, io sto facendo, guardi, ho diviso un foglio a metà. Oggi voglio fare le cose serie come ho fatto ho ieri. Ho 38 anni. Comunista. Non ho vissuto negli anni 70, però negli anni 2000, quando facevo l'università, ho partecipato all'occupazione di un centro sociale, ho fatto politica attiva, ho partecipato anche a degli scontri che fortunatamente non hanno avuto i risvolti violenti. Ecco, io però allora continuavano negli anni 80, io mi sono fermato agli anni 70, fine anni 70. Negli anni 80 c'era ancora lo scontro fascisti contro comunisti? Sì, no global contro reazionari. Io devo però cambiava il nome, però cambiava. No, guardi, la mia, scusi, vorrei che capisse. A me della politica non me ne importa sente nulla. La mia è un sondaggio di tipo sociologico. Voglio capire quanto è rimasto ancora di questo immaginario che fa parte di un'epoca passata nei comportamenti contemporanei. Lei dice che negli anni 80 si chiamava no global contro alla fine degli anni 90, no global contro i capitalisti, quelli che erano. Però nessuno si autodefiniva ancora comunista e fascista, non più. Ma sì, sotto sotto sì, però già ci si voleva liberare da questa dicotomia spinta che poi banalizzava un po' e quindi. Però lei mi dà atto, Nicola, lei che è giovane. Si torna a una radicalizzazione, oggi non c'è più una citazione di una moda passata, oggi mi sembra che lo scontro ricominci a avere le connotazioni più legate all'identificazione, cioè che di destra ormai si dice fascista, sì, non ha più paura. Però io credo una cosa e ne sono fortemente persuaso, sì, che se devo scegliere tra la banalizzazione e l'ebetizzazione totale dei giovani, delle generazioni, e il conflitto sociale, si spera senza violenza eccessiva, senza violenza. Beh, infatti è lo spray peperoncino, una volta scendiamo in piazza con le pistole e i coltelli, appunto, oggi grazie a Dio. Onestamente il conflitto sociale che secondo me è sempre utile per una società piuttosto che l'ebetizzazione totale. Sì, sì. Ma magari ecco, giochino col subbuteo e se la giochino così. Ma però va bene, lei è per un ritorno comunque alla polarizzazione. E comunque ma in un certo senso sì. Sì, sì, perché non deve sfociare nello scontro, però nel confronto dialettico antitetico forse è meglio, perché adesso è tutta una melassa, non si capisce ma se è di destra, di sinistra, se è per gli immigrati, non per gli immigrati, è per il benessere sociale, non si capisce più niente. Almeno quelli vanno in un centro anziani, fanno le prove in un centro anziani, però dicono basta, noi siamo fascisti e loro sono comunisti, e diciamocelo in faccia. Cristian, buongiorno. Buongiorno. Fascista o comunista? Fascista. Fascista. Allora, un comunista. Mi racconti un po', l'ha vissuti quegli anni? Sì, abbastanza. Innanzitutto comunque sono d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore prima, che la polarizzazione è utile, chiaramente, nelle dovute forme. Cioè, ma questo ritorno, diciamo, dello scontro di piazza così polarizzato e così identificato, ritornano il Duce, ritornano tutti gli immaginari, però non trova lei, visto che ha vissuto la storia, che sia ignorante rispetto a quello che è la radice storica dello scontro? Io ho fatto l'esempio, oggi la destra va a irrompere nei centri dove parlano a favore degli immigrati, ma 30 anni fa pensavano che dall'Islam venisse una sorta di faro della tradizione che aveva perso l'Occidente. Ma dunque, ora qui si va parecchio lontano, nel senso, proprio dal punto di vista storico, anche la Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera, fra le pseudo-alleanze, anche tra nazisti e musulmani, cioè, eccetera, eccetera. Però lei, vedi, mi dà ragione, lei che ha una radice storica di neofascismo, una volta era, diciamo, più corroborato di strumenti culturali rispetto oggi, sì, che è più radicale. Sì, ora si va per cliché. Infatti ora, cioè, si va per... Io poi l'ho vissuta, come ho detto prima, in provincia, per cui nella piccola provincia, noi eravamo una piccola provincia, una piccola cittadina di provincia, per cui sì, al liceo dove andavo io c'era una contrapposizione fra comunisti e fascisti, ma però veniva vissuta in modo più goliardico, diciamo, ecco, insomma. Sì, alle assemblee d'istituto si alzavano i toni, magari si arrivava non allo scontro fisico. Ma poi nelle piccole città alla fine si doveva essere per forza tutti amici, poi alla fine era quello. Sì, no, infatti poi ci ritrovavamo al bar e magari ci si offriva di sfottò, ma niente di particolare, però c'era questa contrapposizione anche dovuta a differenza di ideologie e non di cliché. Ecco, lei si ricorda come si vestiva diversamente dai comunisti? Io lei come si vestiva? Io avevo il mio giacchettino di pelle, i miei jeans, le mie polacchine, il maglioncino a colo A. Gli occhiali Ray-Ban sicuramente. Sì, quelli con l'anellino in mezzo agli occhi, naturalmente. Sì, quelli ho l'anellino sempre, se sincero ce l'ho sempre, l'ho ritrovato in un conio del 73, mentre gli altri parca, sciarpa rosa, come ora, ma anche ora tutti abbiamo una divisa, ci si vede fuori, dice, ma quella è di sinistra, quella è di destra. Ma sì, oggi si va lievemente. Da noi la dicotomia è nata nell'8 settembre del 43 e ancora lì... Cioè, ancora non abbiamo risolto. Quello in effetti è vero. Se oggi ancora si discute se cancellare le scritte Duce dagli obelischi, è chiaro che non si è risolto il problema. Però io voglio fermarmi, non voglio dilagare. Lei ha dato una testimonianza molto utile. Gianni, buongiorno. Ciao, buongiorno. Fascista o comunista? Comunista. Comunista. A quanti anni? Posso chiederglielo, Gianni? Anni 70, 72. Ecco, lei cosa vede di diverso rispetto agli scontri degli anni della sua eroica gioventù, perché tutto sommato quando le persone non erano coinvolte in fatti di sangue, in episodi correnti, lo vedono come un momento eroico della loro vita in cui l'ideologia comunque ispirava la tua giornata, rispetto agli scontri di oggi dei ragazzi che scendono in piazza a fare fascisti contro comunisti. Lei ha fatto un'analisi corretta. Io l'ho anche vissuti quei tempi, non è che sì, no, ma era proprio così. Magari ci picchiavamo ai portici, io sono di Arezzo, e poi ci trovavamo nella piazza sottostante e parlavamo tranquillamente tra fascisti e comunisti. Io sono stato, ho avuto un processo per rissa perché... E chi è che non l'ha avuto? Figuriamoci. Al liceo classico noi ci scontrammo con dei picchiatori fascisti, due addirittura poi sono stati uccisi nelle loro città, Viareggio e Milano, quindi... Che l'abbiamo sentita abbastanza forte. Ecco, questa escalation faccia capire a chi ascolta: persone normali come noi, improvvisamente, per aver accelerato troppo rispetto al meccanismo di entrare nelle aree limacciose che non si capiva bene, entravano i grandi, gli adulti, non capì bene chi fossero, si trovano poi coinvolti in casi veramente gravi, omicidi, rapine, sì, certo. Attentati. C'è stata l'escalation, è stato solo un gioco a bocce fra ragazzi? Ma guarda, io ti posso dire che ho conosciuto Cauchi, che è stato un bombarolo che poi scappò in Argentina, eccetera, e io l'ho conosciuto perché anche lui faceva il liceo classico e passammo una settimana insieme in una gita, il ragazzo tranquillissimo, poi dopo lui ha preso una deriva. Ma mi sembra che sia stato implicato nei peggiori fatti di terrorismo. Fatti, sì. Cauchi nei peggiori fatti, cioè Arezzo, c'era questa situazione, questa contraddizione per cui magari frequentavi lo stesso liceo delle volte stavi insieme, frequentavi questi ragazzi, ci giocavi al pallone, eccetera, e poi dopo ti picchiavi anche violentemente, insomma, c'era questa... Sì, poi c'era sempre quello che faceva il passo avanti, entrava in un'area non protetta, non era più i ragazzi che si incontravano, facevano a botte, entrava in un giro che capivi che c'erano persone che non erano più del tuo giro e lo perdevi di vista. E poi è stato uno di questi. E poi lo leggevi sui giornali, leggevi coinvolto in fatti di sangue, attentati, giornali, omicidi, certo. Rapine, è diventato un personaggio. E lei ci faceva la gita scolastica assieme. La gita scolastica, prima che diventasse un personaggio. Frequentavamo io il liceo classico ad Arezzo, lui il liceo classico a Cortona. La ringrazio Paolo, 800240024. Vedete, il beneficio, o anzi il piacere del dubbio. Di fronte a una notizia che può sembrare marginale, laterale, che volete che sia, si sta scoprendo un mondo, stiamo ricostruendo quelle che sono le radici storiche, anche emotive, anche documentali, di uno scontro che non è paragonabile assolutamente rispetto a quello che oggi raccontano i giornali. I ragazzi che scendono in piazza e dicono fascisti contro comunisti, è come se si mettessero i giubbotti di due fazioni opposte in quella sorta di ricostruzioni medievali che fanno in tante città storiche italiane. 800240024, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, il piacere del dubbio. Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest, studenti, piaccianti, operai, il sole non sorge più ad est. Abbiamo vegliato una notte decente, più mesi, sognando quest'alba di ottobre, quest'alba dei giorni ungheresi. Massimo, fascista o comunista? Fascista. Questa canzone in sottofondo se la ricorda? Molto bene, avanti ragazzi di Buda. Io me la ricordo al concerto a Trieste, quando morì Almerigo Grills, cantata in coro da tutti i ragazzi triestini, perché era molto diffusa chiaramente al confine con la Jugoslavia. Sì, la ricordo molto bene. Quali erano gli slogan di piazza? Beh, destra estrema, lotta al sistema. Praga, Berlino, Budapest. Praga, Berlino, Budapest. Praga, Berlino, comunismo assassino. Sì. Allora erano altri temi rispetto allo spray al peperoncino e andare a fare a botte per gli immigrati in un centro anziani, per cacciare gli immigrati. Assolutamente altri temi diciamo più allargati alla politica mondiale, a uno scontro che era poi sul piano mondiale, perché c'era la guerra fredda, ma oggi la differenza secondo me è anche proprio nelle caratteristiche, quelli che il neofascismo di oggi è un movimento che cerca di andare nelle istituzioni, non fa più la violenza, fanno volontariato. Lo scontro di ieri nasce da una richiesta che aveva fatto Casa Pound del consiglio di quartiere, mentre dall'altra parte c'è l'opposto, cioè stare fuori dalle istituzioni completamente. Cosa sarebbe accaduto ai suoi tempi in una situazione simile? Se lei con i suoi camerati... Ma non ci sarebbe stata, perché non ci sarebbe stato nemmeno la possibilità di entrare, di chiedere un consiglio di quartiere e di ottenerlo, proponendosi come movimento di destra. Quindi si entrava e si sfasciava tutto. No, non c'erano spazi ufficiali e istituzionali, per cui ce li prendevamo come si poteva. La cosa in comune è che noi avevamo le radio e oggi ci sono i social per raccontarci le nostre verità. Qual è la situazione più estrema in cui si è trovato? L'estrema proprio di scontro fisico? Ma io sono di Bologna, quindi fino al disastro della bomba alla stazione, Bologna non aveva vissuto degli scontri così violenti. Purtroppo era Milano, Roma, Torino, dove si andava in manifestazione con le pistole e i ragazzi morivano. Da noi fortunatamente sì, botte fuori dalle scuole durante i volantinaggi fatti alla mattina. Da noi veniva, noi, io ricordo uno scontro dove fummo portati in questura noi e i compagni, e loro avevano nel tascapane macchine fotografiche, ci avevano fotografato tutti prima di assalirci. Noi vendevamo un giornale fuori dalla scuola, un giornale che si chiamava Dissenso, e prima di assaltare il banchetto ci avevano fotografato tutti, perché esisteva nella loro organizzazione un archivio dove... L'archivio dei fascisti, sì. L'archivio dei fascisti. Nel piccolo della mia città una volta mi ci hanno messo anche nel giornalino, mi ricordo. Ebbi botte da mio padre per questa roba qua. Ecco. Quindi la differenza era questa, che noi gli spazi ce li dovevamo conquistare. Però lei si ritiri, perché adesso è roba che non le riguarda. Non voglio offenderla, ma... Maurizio. Sì, sa. Questa è roba sua? Sì, è cosa mia. Sì. Quindi lei è comunista? Lei è comunista? Sì. Comunista. Sì. Ero comunista. Racconti... La Federazione Giovanile Comunista, quando era segretario D'Alema, che teorizzava il partitino dei giovani. E che diceva D'Alema a suo tempo? Diceva che i giovani... Cioè, com'era quando era comunista? Adesso, naturalmente... Era come adesso, nel senso molto supponente, e a chi era operaio lo dava fastidio. E come si vestiva D'Alema da comunista? Ma sempre bene, nel senso giacchetta e cose. E non metteva l'eschimo? Non metteva l'eschimo. No, lo mettevamo noi magari l'eschimo. Nemmeno una sciarpetta rossa? I giovani attivisti nei paesi, nemmeno la sciarpetta rossa. Ma scusa, come si faceva a capire che era comunista vedendolo? Facevo un po' fatica anche vedendolo e poi magari anche sentendolo, perché allora per chi teorizzava comunque che i giovani dovevano appropriarsi degli spazi, della cultura e così, sentire uno troppo culturato e che ti... Ma che diceva D'Alema ai tempi in cui era comunista? Adesso lo ricordo. E allora teorizzava il discorso del partitino dei giovani, cosa che è un pochino diversa del movimento dei giovani, e venivano privilegiati i giovani intellettuali rispetto ai giovani operai. Già si capiva che si parlava l'elite, che poi è arrivata dopo, certo. Sì, perché fa un po' ridere, perché i comunisti allora sono diventati tutti direttori dei giornali, personaggi importanti. I fascisti di allora sono dileguati o hanno cambiato, non lo so. Chi è stato un fascista di allora che oggi ha un ruolo di importante nella società? Non mi venga a dire Fini, no. Questa gente qua. Che non... No, infatti, anche nel mio territorio non ne vedo. A parte che poi, lo dicevo prima, lo scontro non era più anche nelle manifestazioni tanto tra comunisti e fascisti, perché in realtà i fascisti si vedevano pochissimo, ma era tra comunisti ed estremisti di sinistra, quindi gli estremisti sono come i Rapanelli, rossi di fuori, bianchi nei cervelli, quando... Questo lo diceva D'Alema, questo? Sì, lo diceva la Federazione Giovanile Comunista. Gli estremisti sono come Ravanelli, rossi di fuori e bianchi nei cervelli. E quindi poi... Cattivissima, anche... una cosa veramente distrugge l'animo di una persona. Si trattava anche a volte di fare il servizio d'ordine per proteggere Comunione e Liberazione dagli attacchi dei... Ah, quindi lei ha difeso da comunista Comunione e Liberazione? Sì, certo. Quindi era catto comunista? No, non dica, mica un peccato. Allora si teorizzava il discorso del compromesso storico, poi venne Moro, c'era comunque... E quindi Cellini all'origine erano di sinistra? No, non erano di sinistra, ma le manifestazioni comunque, essendo una parte, venivano protetti, o comunque cercavamo di proteggere. Perché loro naturalmente nello scontro fisico erano nati nei seminari, negli oratori, non erano adatti. Sì, certo, ma anche noi poi, diciamo, i giovani comunisti della Federazione Giovanile Comunista, non eravamo così. Sì, erate quelli fighetti rispetto agli altri. Sì. Va bene, certo, Simone, certo. Simone, buongiorno. Comunista, fascista? Paninaro. Paninaro, quindi fascista. Ai tempi Paninaro. Sì, ma però fascista. Sì, no, però i Paninari erano più attaccati all'essere, all'apparire, al vestito. Però stavano a San Babila, nasce San Babila il movimento. Sì, stava a San Babila, io stavo a Bareggio, che è in provincia. Comunque diciamo che è la coda degenerata e consumistica dell'edonismo degli anni Ottanta, del neofascismo, delle Barros, delle giacchette fighette. Dei bomber. Dei Frai, dello Zundapp Nero. Quando i San Babilini hanno cominciato a fare i morti, sono diventati Paninari. E quando, per me è stato il contrario, cioè quando ho cominciato a vedere i morti ho smesso di fare il paninaro. Lei è andato ancora oltre, chiaro, sì. C'avete il salsicciotto in mano, non il manganello, è un'altra cosa. Sì, il panino. L'ideologia era praticamente assente per noi, cioè era un fatto più di estetica. E poi quando vedevi che l'estetica diventava ideologia, diventava violenza, ti spostavi. E quindi è il tempo del Moncler, lei. Esatto, e anche del giubbotto di jeans con dentro il pelo. Woodstock cucito sulla manica, che era una cosa agghiacciante. Sì, è che poi si cominciava a parlare di look, diciamo, all'inizio era una divisa, il dress code dell'impegnato politico era una divisa, ti compravi l'eschimo zozzo, te lo portavi dietro per tutto il liceo, o il giubbotto paramilitare. Poi è cominciato ad esserci la raffinatezza dell'accessorio, poi l'eschimo sarà costato 3.000 lire in una bancarella, il Moncler era una spesa. Il Moncler giallo costava credo già 200.000 lire all'ora. Cioè, soltanto chi c'ha il papà che se lo poteva permettere, non esiste. Io frequentavo tantissimi ragazzi che non si potevano permettere, magari lavoravano e lavoravano nei bar, e c'era tantissime persone con pochissimo reddito che cercavano di essere paninari. Di essere allora, l'antitesi qual era invece rispetto al paninaro? L'equivalente di quello che chiamano la zecca a Roma, cos'era a Milano? Ma io non lo saprei dire, perché secondo me i ragazzi di sinistra erano più onesti intellettualmente dal punto di vista dell'ideologia. Oddio, rispetto al modello che ha detto lei, non è che ci voglia molto. Zero. Peggio di così? Peggio di così è impossibile. Per questo dico che secondo me i ragazzi di sinistra ci credevano veramente, e quindi per loro l'abbigliamento era quasi come... Lo sa che ancora negli anni in cui i ragazzi di sinistra studiavano, almeno leggevano dei libri, si davano... Sì, la destra a un certo punto ha abbandonato i libri e ha cominciato a dedicarsi comunque agli aspetti estetici e al populismo generico. All'inizio studiavano tutti, poi la destra ha smesso di studiare. E questo è anche il motivo per cui poi adesso tantissima letteratura e tantissima cultura e tantissima musica di sinistra, e la destra ha perso un po' un ruolo in questo. Pensi che Il Signore degli Anelli era un libro che si leggeva clandestinamente, te lo vedevano sotto braccio e manco ci avessi il Mein Kampf. Oggi ci fanno i gruppi d'ascolto nei centri sociali. Ci fermiamo un istante. 800 24 00 24, fascisti o comunisti, a tra poco. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Melog, il piacere del dubbio. Ma che c'è? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia. Attento, fascio, che non ci metto niente. A me fascio? Io fascio? Io mica so comunista così, sa? So comunista così! Portavo allora un eschimo innocente, dettato solo dalla povertà. Non era la rivolta permanente, diciamo che non c'era e tanto fa, portavo una coscienza. Stefano, buongiorno. Pronto? Stefano, fascista o comunista? Di destra, quindi lei non portava l'eschimo. No, ma questo dicevo, io comunque volevo anche dire questo, che indipendentemente era una necessità, secondo, perché ricordo pure ragazzi di destra che lo indossavano. Però era marroncino e beige, non era verde. No, era verde. Poi anche pure il fatto che vedevo, anche conoscevo tra i miei compagni ragazzi che erano di sinistra e avevano certi valori tradizionalisti, non mi fa sempre questo fatto. C'erano, diciamo, delle zone di osmosi fra le due ideologie. Sì, insomma, che non mi sembrava tanto un fatto divisorio tra essere di destra o di sinistra. Lei di che anni parla innanzitutto? Degli anni 70, pieni anni 70. Quindi... Lei parla però proprio ai primordi, in cui ancora, diciamo, la neodestra era semiclandestina, quindi doveva stare perché io pure conoscevo queste ragazze che erano di sinistra, e nonostante avessero su certe cose, sempre erano vergini fino al matrimonio. Sì, diciamo che a destra non te la davano, ma manco se ti buttavi per terra e ti facevi una crisi epilettica. Molto bene. Però a volte non è che ci sta questa grande intolleranza, anche se uno sapeva che era. Lei ha vissuto una situazione in cui ancora, diciamo, era una contrapposizione dialettica e non c'entrava nello specifico. Ornella, finalmente una donna. Ornella, ci sei? Io ci sono. Allora, Ornella, fascista o comunista? Se devo dire, comunista, anche se non ero una scatenata, partecipavo ai collettivi, avevo un po' paura per delle manifestazioni, ero piccolina, parliamo dei primi anni 70, 72, 73. Ma poi è cresciuta, 15, diciamo, 16 anni. L'escalation c'è stata dopo, c'è stata fino agli anni 80. Sì, certo, infatti ne sono uscita un po' prima, però ho vissuto proprio gli inizi drammatici dove si usciva la mattina e non si sapeva se si tornava a casa. E perché non si sapeva se tornava a casa? Che succedeva? Perché era un continuo inseguirsi tra fascisti e comunisti. A lei l'hanno mai inseguita? Sì, ma inseguita però in un modo strano, nel senso che io ero sicuramente di sinistra, partecipavo a un sacco di colleghi. Ma come si vestiva da donna di sinistra? Ecco, io appunto mi vestivo però in modo un po' alternativo per essere una donna di sinistra, perché a me è sempre piaciuto vestirmi bene in qualche modo. Cioè metteva i mocassini di Gucci, quelli con la staffetta, no? Le scarpine di Gucci no, però per dire, l'eschimo che avevo era comprato da Fiorucci arancione. Avevo l'eschimo, ma era particolare. Ah, fighetta. Lei già faceva la comunista terrazziera antelittra. La radical chic, perché ero abbastanza... Beh, siete gli unici a essere sopravvissuti però di quel mondo. Però io ho avuto modo di vivere molto molto intensamente quel periodo, anche perché poi è successo che... Ma cosa faceva in quanto donna di sinistra? Cioè la dava più facilmente che le donne di destra? No, io non la davo proprio. E quindi che dov'era di sinistra lei? Io ero di sinistra nelle mie idee, ero molto progressista e partecipavo... Scusi, eschimo arancione, sì. Contenzione, quindi nessuna promiscuità sessuale, nessun diciamo scambio proletario? No, avevo 15 anni quando ho iniziato. Vabbè, però è cresciuta, scusi. Dopo poi c'è stata un'evoluzione. Mi parli dell'evoluzione. L'evoluzione è stata che... Proprio perché ero un po' carina, diciamo, un po' anomala per essere di un ambiente appunto di sinistra. Ma perché le donne di sinistra erano tutte cozze, non è così? No, ma no, non mi trascuravo, ci tenevo. Sì, si trascuravano, diciamo, c'era licenza di sgommata, depilazione negata. No, io mi depilavo. Allora non era di sinistra, scusi. No, ero di sinistra nel cervello, ma esteticamente ci tenevo un parecchio, insomma, non mi piacevano certe cose. Comunque, cioè, una donna di sinistra si depilava all'inizio, fine anni 70. L'unica, adesso è anche una falsa idea questa che tutte quelle di sinistra allora erano sciatte, eccetera. No, sì. Non era così. Si diceva. Senta, veramente. Suo marito dove l'ha trovato? Appunto, mio marito, siccome appunto ero una di sinistra anomala, l'ho incontrato in una discoteca perché mi piaceva andare a ballare, cosa che era fascio. Era fascissimo. Beh, tutte donne sinistra alla fine. Era proprio un sambabilino. Lo so, ma c'era questo detto, non posso ripeterlo, ma c'erano delle assonanze con il manganello che sembrava che si trovava. Lo so, bene. Purtroppo c'era questa nomea, capito? E quindi ci siamo incontrati in questa discoteca e insomma ha cominciato a costeggiarmi, veramente prima un suo amico, poi da fascista gli ha fregato. Vabbè, poi se l'è trombata sangue come fanno i fascisti e lei si è innamorata. Ci siamo pure sposati. Giustamente, Dio, patria e famiglia. Vabbè, alla fine lei di sinistra aveva poco, ma in realtà chi oggi ancora si dice sinistra, in realtà questa è la sua scaturigine. Alessandro. Buongiorno. Comunista fascista? Comunista, rigorosamente comunista. Lei con questo pareggia, perché finora c'ho 5 comunisti e 5 fascisti, siamo pari. Comunista quanto? Quantornella, che era comunista per modo di dire, o comunista vero? Guardi, io mi sono trasferito a vivere a Berlino Est. Lei ha fatto una scelta seria, come quelli che andavano a Cuba per tagliare la canna da zucchero nei campi di Fidel Castro. Esatto, cioè, ho fatto l'operaio per un bel po' di anni. Cioè, ha conosciuto il vero comunismo, non le chiacchiere. Ho conosciuto il vero comunismo. Ma mi dica questa esperienza, come mi interessa questa cosa? Noi avevamo, ovviamente la realtà che ci veniva data era quella filtrata. Ma ci si andava tramite il partito, uno diceva al partito, faceva un'esperienza... Era l'unico modo per... Se no non ti pigliavano, era una spia. Quello è possibile. Il discorso è che comunque si guardava con grande interesse la situazione italiana all'epoca, anche a Berlino Est. Ma lei che vedeva la micragna, la miseria e la mancanza di libertà, li vedeva come valori vivendoci in quel periodo? Cioè l'ideologia era così forte che lei, pur stando in un posto sfigato... Devo dire che in realtà tutta questa gran povertà i tedeschi dell'epoca non la percepivano. Appena è cascato il muro hanno lasciato le trabante, sono andati tutte all'altra parte. È anche vero però che esiste l'ostalgia. molte persone che rimpiangono amaramente la mancanza di... Cioè, c'era gente quando è crollato il muro che non aveva idea di cosa fosse un curriculum, non sapeva cosa fare, andava dagli uffici statali e chiedeva che cosa dobbiamo fare perché noi non sappiamo. Va bene, senta, lei con la sua testimonianza, che alla fine qualcosa abbiamo tirato fuori rispetto alle letture superficiali, il dubbio serve, ha pareggiato, sono tanti comunisti quanto fascisti, abbiamo un pubblico totalmente bipartisan, quindi abbiamo fatto una trasmissione che conferma l'equilibrio del nostro spettatore, ascoltatore. Alla prossima.